Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi parla di istruzione, cosa per noi importantissima, visto che indaghiamo sull'attività dei vari Rodari, Bruno Ciari, Alberto Manzi, Mario Lodi, eccetera. E non poteva essere che con sgomento vediamo il nuovo ministro dell'istruzione Valditara, che si è presentato con le sue linee e direttive per l'istruzione, con un pensiero che più che ricordare il Novecento torna all'Ottocento, forse alla preside di Gian Burrasca. E allora abbiamo ascoltato un docente, un ricercatore storico, che si confronta con queste direttive di Valditara. Lui è Ciro Saltarelli, ai microfoni di Morena Moretti. Dopo lo stacchetto musicale andiamo con l'intervista. Ciro Saltarelli, che è docente e storico. Buongiorno Ciro. Buongiorno, buongiorno Morena, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sono uscite in marzo queste indicazioni 2025 del MIUR per le scuole dell'infanzia, primo, secondo ciclo di istruzione, cioè parliamo primarie e medie, che sono rivolte, direi, prevalentemente agli insegnanti, che comprendono appunto molti capitoli, le materie scolastiche di fatto. Ciro, qual è l'idea generale della scuola che emerge da queste indicazioni? Allora, innanzitutto sono delle bozze di indicazioni nazionali appunto per l'insegnamento e riguardano tutte le materie, tutte le discipline e vanno nella direzione di una risposta a degli apprendimenti che siano più significativi e maggiormente incisivi vista questa ondata di analfabetismo di ritorno. Questo è, diciamo, l'obiettivo al quale mirano queste nuove indicazioni. Appunto, riguardano tutte le discipline in maniera differente, perché alcune discipline stanno nel solco della ricerca didattico o pedagogica, altre invece prendono una piega un pochino più ideologica. Tu, che sei storico, ti sarei concentrato proprio sulla parte che riguarda la storia. Tra l'altro il capitolo ha un inizio abbastanza impressionante, perché c'è una frase molto secca che dice esattamente nel perché si studia la storia. La prima frase è: solo l'Occidente conosce la storia, poi c'è un punto, dopodiché spiega perché l'Occidente avrebbe questo patrimonio storico culturale unico, più importante di tutto il resto e di tutte le altre culture. Insomma, c'è questo inizio che lascia un po' perplessi, ma qual è appunto l'idea che viene fuori da questa storia, come va insegnata? Sì, sicuramente la storia è quelle discipline, come dicevo prima, che è stata soggetta ad uno sguardo più attento e con una dimensione sicuramente anche pubblica. Queste indicazioni hanno sicuramente il merito di aver acceso e focalizzato l'interesse sull'insegnamento della storia, però in un senso conservatore, in quanto vengono prese sia a livello metodologico sia a livello contenutistico degli elementi, la ricerca sia in campo storiografico sia in campo pedagogico aveva superato con altri contributi. E sicuramente la storia, l'incipit, insomma, che è stato soggetto ad un attento dibattito estrapolato dalle parole di Marc Bloch, ha una valenza sicuramente duplice, sia nel senso della conoscenza storica come un pseudo primato occidentale, ma più che altro sotto il punto di vista metodologico, mentre invece le indicazioni sostanzialmente ignorano aspetti metodologici molto importanti o anzi segnano di un passo indietro rispetto a delle acquisizioni anche in campo di didattica della storia oramai consolidate, come ad esempio la critica delle fonti. E uno dei passaggi più sensibili di queste nuove indicazioni per l'insegnamento della storia è appunto questo, il fatto che si dica esplicitamente che i bambini, soprattutto alle elementari, non possono approcciarsi alle fonti storiche, cosa che invece insomma la prassi didattica anche più innovativa mostra da un po' di tempo, e mi permetto di sottolineare che anzi questo aspetto della conoscenza e della critica delle fonti è strategico in un mondo contemporaneo dominato anche dalla tendenza delle fake news e appunto di tutti i fenomeni che derivano da queste fake news e queste false notizie. Parliamo dell'approccio alle fonti, vuol dire andare anche a ricercare i documenti originali, dalle foto. Esattamente. E quindi per queste diciamo indicazioni si ritiene che sia sufficiente, sia più importante il rapporto insegnante-allievo e i libri di storia, cioè le fonti, come se non potessero essere capite a quell'età. Esattamente, le nuove indicazioni vanno in questo senso, appunto, nel dire che i bambini non possano comprendere le fonti storiche e che vada offerta loro solo una narrazione storica. Una narrazione storica sia che imposta la trasmissione del sapere in senso verticale sicuramente, ma anche in maniera abbastanza passiva per chi apprende. Quindi c'è un po' questa bivalenza, questa contrapposizione tra la possibilità di approcciare i bambini alla ricerca storica e quella invece di offrire loro una storia che sia appunto chiusa e definita nei suoi risultati, cosa che invece la ricerca storica ci mostra in continuazione che questo non è vero. E soprattutto in tal senso, dal punto di vista di storia della pedagogia, assumono un sacco di significato le sperimentazioni, ad esempio, che possiamo trovare nel Pioniere per mano di Gianni Rodari relativamente alla proposta di nuovi canoni storici nell'immediato dopoguerra, proprio perché appunto l'insegnamento della storia era un ambito di formazione anche civica. Ciro Santarelli. Sì, quindi questo approccio pedagogico è un approccio pedagogico, quello che tu hai accennato anche di Gianni Rodari sul Pioniere, che è il giornale di cui noi ci occupiamo naturalmente, qualcosa di molto vecchio, quindi già dal dopoguerra queste nuove forme di pedagogia vennero assunte, non solo da Gianni Rodari ma da tanti, ovviamente i pedagogisti erano tanti e tanti, diciamo, maestri, possiamo parlare di Lodi, possiamo parlare di Manzi, eccetera, insomma. E quindi diciamo che qui c'è invece un po' un ritorno al passato, forse un po' una scuola più gentiliana come approccio, anche se naturalmente non in tutto, però nel rapporto soprattutto insegnante-ragazzo, tant'è anche sulle nuove tecnologie. Io ho letto molto velocemente sul versante sempre storico, sulle ibridazioni tecnologiche, viene anche detto che, leggo testualmente, al contrario di quanto comunemente si pensa, l'interazione con contenuti multimediali non è in grado di promuovere il pensiero critico e l'analisi storica. Un po' strana questa cosa, Ciro, cosa ne pensi? Sì, il punto è proprio questo, un'altra obiezione a queste indicazioni per l'insegnamento della storia è stata il fatto, al contrario ad esempio di quelle relative alla geografia, anche il fatto che vengano slegati totalmente la storia e la geografia, atto singolare, proprio una delle obiezioni è stata quella appunto della unica scala nazionale e della mancanza della multiscalarità sia nell'apprendimento della storia che della ricerca storica. Ecco che in quest'ottica quello che troviamo ad esempio nel Pioniere è avanguardistico ed innovativo, soprattutto se si pensa al tempo. E il discorso sui linguaggi, sulle tecnologie, sugli strumenti, appunto riferendoci anche al Pioniere, a questo tipo di sperimentazione, era già presente, perché una delle criticità che colpirono il Pioniere all'inizio fu quella del dibattito sull'utilizzo dei fumetti per fare cultura educativa, e si scontrarono appunto Gianni Rodari e Nilde Iotti, e il discorso che rimane dal punto di vista pedagogico è appunto quello di Rodari, che disse che l'importante è concentrarsi sui contenuti piuttosto che sulla forma, e mi sembra un po' la stessa cosa relativa alle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie sono una nuova forma che offre sicuramente delle potenzialità assieme a delle criticità, ovviamente, però ecco, va sempre piegata e declinata al tipo di metodologia e al tipo di obiettivi e di risultati che si cercano e si attendono appunto sia dall'apprendimento della storia che dalla ricerca storica in senso stretto. Ecco che è opportuno che il dibattito continui, cerchino dei punti di confronto e di arricchimento generale proprio per far sì che questo apprendimento della storia all'interno della scuola sia significativo e sia funzionale a formare dei cittadini critici e consapevoli, appunto. Quaderno con la C, quando ero piccolino così. Sui banchi della prima B, con te mio dolce amor, vorrei tornare per cantare ancora. Liule, piedi, piedi, questo bel gioco, vieni bambina, giochiamo un poco, tu li lem, blem, blu, se tu vinci baci me. Innamora tu di lem blem blu, se tu perdi bacio te aoi. Parlando della nostra carta costituzionale, Fondo è una mostra che parla delle madri costituenti, una mostra prodotta da Stella Alpina, che è un'associazione di Novara che tratta molto la resistenza, in particolare nelle scuole, una mostra che parla appunto delle donne partecipanti alla costituente, che poi hanno dato le basi della nostra Repubblica. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, la parola a Pietro Beldì nell'intervista di Morena Moretti per raccontare la mostra Madri Costituenti.

Thank you.